Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. La nuova caffetteria di Blessford, una delle prime del nord, era un seminterrato, frutto del restauro sperimentale della cantina di un negozio di tè. C'era una nuovissima macchina espresso, alcuni separé con pareti di cartone pressato, candele nelle bottiglie sui tavolini e manifesti di amene località italiane, Sicilia, Pompei, i gradini di Piazza di Spagna. La luce azzurro genziana trasformava la schiuma del cappuccino in inchiostro fosforescente. Daniel infilò la figura scura e massiccia nel vano della scala di legno e scese curvando le spalle. Sedettero in un separé d'angolo, su sgabelli imbottiti, e quello di Daniel scricchiolò minacciosamente sotto il suo peso. Uno di fronte all'altra, labbra azzurre, denti fosforescenti color giacinto, la cavità della bocca color dell'uva. I capelli di Stephanie erano incolori e metallici. La luce fioca si insinuava tra le pieghe dell'abito tenebroso di Daniel, zampillava nei capelli e nelle folte sopracciglia e metteva in ombra il mento, facendolo sembrare più caldo, più fluido, meno corpulento. Ignaro dei suoi effetti, Daniel disse che l'illuminazione gli pareva triste e ordinò il caffè. Si stava domandando se dovesse dire soltanto «credo che dovresti sposarmi», oppure, e sarebbe stato più esatto e modesto, «credo che dovrei sposarti». Era turbato, cosa insolita per lui, perché lei era tutta luccicante e azzurra. Essere un uomo che diceva sempre ciò che pensava si rivelava uno svantaggio qui, dove i suoi pensieri erano estremi e repentini e potevano persino apparire stupidi. Fece un primo tentativo. «Pensavo che dovremmo parlare». «Di cosa?» «Beh, non è di cosa che mi preoccupo. Solo che noi, lei e io, dovremmo parlare». Mi sembrava importante. Stephanie manteneva un garbato silenzio, come se aspettasse qualcosa che richiedesse una risposta. Lui proseguì goffamente. Volevo conoscerla meglio. Di solito non mi succede, voglio dire, solo per lavoro. Questa volta è per me. Lei disse, lasci perdere. Lasci perdere? Non voglio sentirmi dire cose del genere. Perché no? Santo cielo, perché tanti lo fanno. Dovrebbe capirlo. Daniel non capiva. Non si era mai rivolto a una ragazza spinto da esigenze personali, ma fu svelto a pensare. A un tratto e con avvilimento si rese conto che era una donna da cui tutti pretendevano molto. La sua famiglia, il lavoro, le persone che conosceva per caso e senza dubbio altri uomini. Ciò che per lui era straordinario, per lei non lo era. Fu lui a tacere adesso. «Io non la conosco», disse Stephanie. «È quello che le propongo di fare. Lo so, ma sembra che lei dia troppa importanza alla cosa e credo che non mi riguardi. Cerchi di capire». C'era qualcosa di falso e irritante nella sua condiscendenza, una reazione resa meccanica dall'abitudine. Daniel era rabbioso e lei se ne accorse. Disse... «Santo cielo!» «D'accordo!» esclamò Daniel. «Chiamala qui! Vogliamo andare?» «Oh, santo cielo!» ripeté Stephanie. «Santo cielo!» concordò ferocemente Daniel, facendo cenno alla cameriera. Si sentiva soffocare. «Non se ne vada, non mi faccia sentire in colpa. Intendevo solo che...» Lei non poteva dire quello che intendeva, e lui... non poteva dire che non gli importava che si sentisse in colpa. Così restarono. Poi, sforzandosi di mostrarsi socievole, Stephanie gli chiese del suo lavoro. «Il lavoro sarebbe più facile se non fossero tutti così timorosi di scoprirsi», disse Daniel cupo. «Sono tutti invischiati e intrappolati nelle convenzioni. Non parlare se non ti viene rivolta la parola. Carità è una parola sporca. Non cercare di importi, non permettere che gli altri si impongano a te. Stanno lì a rodersi le budella, ma guai a fare un passo verso chi è in difficoltà come più di te per scambiare una parola». Il mio lavoro consiste nell'inventare un apparato di convenzioni alternative. Convenzioni che dicono che bisogna avere il coraggio di parlare, di scoprire come stanno le cose. Le convenzioni, disse Stefani, esistono per ragioni precise. Tengono la gente al riparo dai dispiaceri, dall'affrontare cose che non riuscirebbero a sopportare, oppure consentono un lento e sopportabile approssimarsi ai dolori dell'esistenza. Le persone non possono essere sempre spinte all'estremo. Non è detto che ce la facciano. L'estremo esiste, replicò Daniel cupamente. Prenda la signorina Phelps. Bacino a pezzi. Nessuna possibilità di camminare di nuovo, giorno dopo giorno in un letto d'ospedale, soffrendo, contemplando la fine imminente, cercando di non pensarci. Prenda la signorina Witcher. Vive a due passi da lei e non conosce né la signorina Phelps né nessun altro. Mi serve il tè in tazze con boccioli di rose, tazza dopo tazza, sempre molto raffinata. Oh, signor Orton, sento che la vita sfugge via senza uno scopo. Nessuno ha davvero bisogno di me. E così le dico, vada a trovare la signorina Phelps. E allora comincia con i dubbi. Imitò per Stefani le incessanti obiezioni della signorina Witcher. E se mi giudicasse indiscreta? O mi accusasse di volermi guadagnare il paradiso? Se ci accorgiamo di non avere interessi in comune? O se fosse tutto troppo doloroso e peggiorassi le cose? E se dico la cosa sbagliata? Lo sappiamo tutte e due di non essere veramente amiche. Non ci sarebbe niente di spontaneo, eccetera, eccetera. Stefani fu colpita dalle sue doti di imitatore, amorfo e indignato nella luce azzurra. Lo immaginava sempre uguale a se stesso, un uomo tutto d'un pezzo che va dritto per la sua strada. Signor Orton, è impossibile risvegliare l'energia di tutto il mondo, fare tutto da soli. Non vedo cos'altro potrei fare, disse accigliato. Il pastore, proseguì Daniel, che di norma non si lamentava mai, teme di essere invadente. Si limita a sorridere e dice, che belle rose le hanno portato, signorina Phelps. Il tempo migliora, signorina Phelps. Non dice, non camminerà più, signorina Phelps. Come se la caverà? E neppure, c'è ancora qualcosa di vivo dentro di lei, signorina Phelps. È in grado di parlare, siamo qui tutti e due, non siamo ancora morti, no? Questo non lo dice. Bisogna dire in modo che sembri sincero, se proprio bisogna dire qualcosa. È impossibile risvegliare l'energia di tutto il mondo, fare tutto da soli. Non vedo cosa potrei fare, disse accigliato. Penso che il pastore Allenby non abbia simpatia per me. Creo disordine. A lei piace creare disordine, e fa benissimo. Quella missione la spinse a chiedere, senza volerlo e con una certa affettazione, c'è niente che io possa fare. Per la verità un'idea ce l'avevo. Azzardò una battuta. A parte parlare con me. La signora Haydock. La signora Haydock? Case Bronte, quartiere Brenwick, sulla Trentina. Il marito ha preso il volo, cose che capitano. Due figli, una bambina impaurita, un ragazzo autistico, 6 e 9 anni. Il ragazzo sfascia tutto. Zitto, zitto, non una parola, non ha mai detto una parola. Ogni cosa viene fatta sistematicamente a pezzi, lacerata, sfondata, sbriciolata, sventrata. Non le persone, mai, solo gli oggetti. Qualche volta canticchia. Dicono che canticchi cose molto complesse, io non sono in grado di dirlo, non ho orecchio, so cantare solo il responsorio. Se ne sta lì con lo sguardo fisso, non idiota, non guarda te né distoglie gli occhi da te, lo sguardo fisso su un'altra dimensione. La madre non vuole metterlo in istituto, gli vuole bene, non sarebbe una decisione facile. E l'altra figlia, Pat, quella povera ragazzina, non ha un buco dove rifugiarsi. Ma il problema non si pone. Lei ama suo figlio, vive per lui. Non ha cercato di convincerla a metterlo in istituto? Ci ho pensato, sì, ci ho pensato. Per la bambina, la piccola Pat. Ma credo che la signora Haydock crollerebbe senza di lui, perché è diventato la sua vita. Strana cosa la vita. Non sai quale accidente può trasformarla in un vicolo cieco per il resto dei tuoi giorni. Avere un bambino così o un genitore fuori di testa. Amore, Dio. Comunque ho deciso. Ha deciso? Se avesse un giorno libero alla settimana. anche solo un pomeriggio per portar fuori la piccola Pat. Se avesse qualcuno di cui si fida che si prenda cura del figlio, una persona che ci vada regolarmente, così da poterci contare, le cose cambierebbero per tutti. Non lo chiederebbe mai. Bisognerebbe persuaderla. Ma se qualcuno si offrisse, lei se la sentirebbe. Sei la terrorizzata, rispose Stephanie Potter. E crede che la signora Haydock non lo sia? E Pat? È una tale responsabilità. Dobbiamo assumercene un po' tutti. Daniel, signor Orton, perché proprio io? Ho sempre pensato che lei fosse la persona giusta. Tutto qui. Potrebbe darle una mano. Sono sicuro che se la caverebbe. E se accetterà di andarci, vedrà che non mi sbagliavo. Ebbe improvvisamente paura di lui. Si avventurava senza remore in territori che di norma non si pensano e non si abitano, in cui si spera di non abitare mai. Vedeva il mondo terminale e aveva ragione. Stephanie cercò di immaginare l'esistenza che si era scelto. Non ci riuscì e non voleva essere costretta a farlo. Si dedicava a ciò che aveva scoraggiato Keats, il quale aveva abbandonato la chirurgia per la poesia, pur sapendo che la poesia non poteva dare risposte al dolore. «Lei riuscirebbe a commuovere una pietra», gli disse. «D'accordo, posso provare, ma mettiamo bene in chiaro che proverò una volta o due per capire se sono capace. Non posso prometterle di più». Gli rivolse un breve sorriso, il primo veramente animato di tutta la loro conversazione. Poi aggiunse con orgoglio: «Ma se accetto, sappia che sono una persona affidabile, glielo assicuro». «Non ce n'è bisogno. Ci sono cose che so sulle persone e cose che non so. E questa la so». La stanza dei giochi. Lentamente, scampolo dopo scampolo, brillantemente, con perle, piume e lustrini, l'opera di Alexander invase la canonica. L'anno prima, le signore di Blessford avevano fatto dei cuscinetti a piccolo punto per gli inginocchiatoi di San Bartolomeo, ricamando gigli e pesci color panna e ocra su un discreto fondo cachi, perché non si vedesse lo sporco. 10 anni prima avevano raccolto indumenti usati per gli sfollati, libri tascabili per i soldati, lavorava ferri, riquadri di lana per fare coperte per le vittime dei bombardamenti. Quell'anno confezionavano corpetti e sottogonne. A Londra, intanto, migliaia di minuscole perle e cristalli, in una composizione luccicante, venivano applicati sull'abito di satin bianco opaco per l'incoronazione della regina. Gli emblemi del Commonwealth e dell'Impero, rose e cardi, aceri e ghiande, venivano ricamati con sete colorate sull'orlo di quella veste. Felicity Wells, che coordinava gli sforzi artistici di Blessford, si sentiva al centro di una tela tessuta con infiniti fili culturali, rilavorati, riannodati. Nel vestibolo della canonica e nel portico della chiesa c'erano cesti per qualunque scampolo, prezioso o raro, che si potesse riutilizzare. Durante le lezioni di ricamo si cucivano raggi di perline di plastica sulla cappa di velluto nero di Sir Walter Raleigh, lune d'argento, uccelli d'oro e rose cremisi e bianche, su gonne, abiti e strascichi, fiocchetti di nastri rosei e paglierini su giarrettiere ricamate. «Siamo affamati di colore», disse la signorina Wells, svuotando sul tappeto una sporta di rocchetti nuovi di simil seta che rotolavano luccicando in ogni sfumatura e gradazione di colore. «Cose magnificamente domestiche», disse con entusiasmo a Stephanie, e le confessò di averne sempre desiderato un cassetto pieno, senza tuttavia averne la scusa. Stephanie aveva deciso di non farsi coinvolgere nello spettacolo. Ne aveva sentito parlare fin troppo da Frederica, e il fatto che fosse opera di Alexander provocava in lei una certa pigrizia, se non una riluttanza a farsi avanti. Se la sera sedeva, come faceva, nella canonica a intrecciare passamanerie dorate, o se correva in bicicletta da una parte all'altra della brughiera con messaggi su stecche di balena e stoffe per gorgiere, era perché non poteva dire di no a Felicity. Avevano finito con l'accettare che Daniel, quando non era occupato, sedesse lì insieme a loro. Le donne cucivano e l'alacre Daniel preparava il tè e lavava le tazze. Daniel stava piuttosto male. Certo, non si era sbagliato riguardo a Stephanie Potter e Malcolm Madoc. Lei si era offerta una o due volte e in seguito regolarmente, promettendo sabato e domenica alternativamente. La signora Madoc aveva pianto sollevata nella stanza di Daniel, temendo che non sarebbe durata, sentendosi in colpa verso Malcolm e verso Stephanie. Ma a quanto sembrava, sebbene né Daniel né la signora Madoc ne fossero mai stati testimoni, i due avevano trovato un modo per sopravvivere al tempo trascorso insieme. Una o due volte Daniel era passato dalle case Bronte, era quasi un dovere, per vedere come se la cavava Stephanie. Di solito trovava i due zitti e immobili, a una certa distanza, lei seduta su una sedia a braccia conserte, lui seduto sul pavimento, come sempre quando non era iperattivo, in un angolo della stanza, che batteva ritmicamente la testa contro l'una, poi contro l'altra delle due pareti adiacenti. Daniel si sentì intimidito, con sua stessa sorpresa, dalla qualità di quel silenzio e imbarazzato a spezzarlo. Una volta le chiese, con la giovialità dell'ecclesiastico, come riusciva a farlo stare così tranquillo, e lei rispose che ci riusciva restando immobile e distogliendo l'attenzione da lui. «Se ti comporti così», spiegò, «tende a imitarti», ed entrambi riuscivano ad astrarsi per tutto il tempo convenuto. Stephanie si chiedeva se dovesse cercare un qualche contatto o giocare con lui, ma non aveva alcuna competenza e non sapeva come cominciare. Almeno così il ragazzo non faceva nessun danno. Oh, no, Daniel. Nessun danno. Egli finì per sentire, lì come nella stanzetta di Felicity Wells, che consciamente o inconsciamente lei lo trattava come trattava Malcolm Madoc. Gli imponeva il silenzio isolandosi e non concedendogli alcuna attenzione. Era fisicamente presente, ma gli negava ogni occasione di rivolgerle la parola. Gli opponeva una barriera liscia e insonorizzata come una parete di vetro. Si domandava perché si ostinava a stare lì con loro. Naturalmente lo sapeva il perché. Era ossessionato da lei e impreparato a tale irragionevole stato d'animo. Per anni non si era curato di sé se non come strumento della propria missione. Ora pensava continuamente a lei, e se con un violento atto di volontà riusciva a cacciare l'immagine di Stephanie dalla chiesa o dalla camera da letto, si ritrovava orrendamente presente a se stesso. Cercava di vedersi con gli occhi di lei e non ci riusciva. Molte certezze svanivano. Rifletteva sul proprio passato e si chiedeva se non fosse profondamente innaturale, in un certo senso, non avere mai provato prima un simile turbamento. I pensieri impuri non erano mai stati un problema. La masturbazione era un sollievo a cui, saggiamente, vista la sua generazione, aveva sempre ritenuto di avere diritto. Una soluzione rapida e pratica a determinate necessità biologiche. Prima di Stephanie non si era mai accompagnata a immagini visive. Di tanto in tanto sentiva l'eco lamentosa della propria voce robusta che implorava Stephanie di essere gentile. Ne era disgustato. Ora Stephanie si era messa tra lui e Dio. Così Dio diventava problematico e lui si sentiva di nuovo, come da ragazzo, ostaggio del proprio grasso. Avrebbe potuto percuoterla o spezzarla. Veniva a prendere il tè perché, stando nella stessa stanza, lei veniva se non altro ridimensionata, confinata alla sedia su cui era seduta. Non era naturalmente la sola ragione. Se doveva desiderarne la carne, preferiva la carne vera, non era di quelli che vadono dalla realtà. Si metteva seduto accanto a lei, ardendo nei pantaloni neri, e soffriva. Felicity Wells amava la loro compagnia. Li coccolava e confidava. Li osservava con occhi neri, vaghi, tristi. Il fatto che fosse la sua camera, che la regia, per così dire, spettasse a lei, andava bene a tutti e tre. Un giorno Stephanie, arrivando, trovò l'amica in equilibrio su una gamba sola. avvolta nell'ultima luce dell'abbaino, in cima a una malferma scalinata fatta con un dizionario, un poggiapiedi, un tavolinetto, il letto e un tavolo più alto. Indossava un'ampia gonna e sopragonna di lucida stoffa verdazzurra da tendaggi e la stringeva in due grossi nodi nei piccoli pugni, sollevando la fatica davanti a sé. Sul capo aveva una cuffietta di satin trapunta di perline e un copricapo di organza sbilenco. Avrebbe fatto parte dello stuolo fedele all'incoronazione di Elisabetta I e dello stuolo in lacrime alla sua morte. «Prova pratica di discesa graziata», annunciò sorridendo a Stefani. Alle spalle di Stefani spuntò Daniel. La signorina Wells agitò una mano, barcollò e crollò sul letto, ridendo nella nuvola di tessuto, cercando di trattenere la sua complicata capigliatura. Le fece eco la risata fragorosa di Daniel. «Biricchino, spaventato! Spero di non essermi punta con gli spilli. Lo sapevo che ci vuole pratica per salire dei gradini con il cerchio della crinolina. Dammi una mano, ragazza». Stefani l'aiutò a tirarsi su. Il busto della signorina Wells emerse tra le gonne. Alzò le mani cercando di tenere insieme capelli, fermagli, retina e parrucca. «Abbigliamento traditore!» disse schioccando la lingua con divertita disapprovazione, acquattata nell'armatura della sottogonna. Stefani guardò con tristezza quella donna minuta, senza petto e senza fiato, la cui scollatura dentro il corsetto aveva una delicatezza decadente e crespa, foriera di rughe. Daniel tese le braccia robuste e la rimise agevolmente in piedi. Risero entrambi. Stefani si mise al lavoro. In tempi normali era cosparsa di pezzi di stoffa. Merletto sul tavolo, sete rosse e oro tempestate di perline lucide come i tappi delle bottiglie del latte gettate negligentemente sulle lampade da tavolo per creare un'atmosfera calda e misteriosa. Adesso, invece, era ingombra, imbottita e tappezzata di rotoli di tessuto, mucchi di scampoli e abiti sgargianti e lucidi appesi alle grucce in attesa delle ultime rifiniture. Stefani vedeva tutto nella sua duplicità, con assoluta chiarezza e precisione. Vedeva ciò che le cose volevano essere, senza che le sfuggisse alcun dettaglio di come in realtà apparivano. Vedeva anche i tappi delle bottiglie del latte cuciti sulla cappa e la totale mancanza di interesse di Daniel per qualunque cerimonia, che fosse di Shakespeare o Yeats o dell'alta chiesa anglicana. Vedeva le tazze da tè scheggiate e i buchi nelle calze. Non era affar suo fondere queste cose in nuove unità. Lei si limitava a vedere. Daniel andò con la teiera sul pianerottolo e preparò il tè. Quando tornò e appoggiò cautamente la teiera davanti al camino, inginocchiandosi ai piedi di Stefani, la signora Wells, ora regalmente assisa nei suoi artistici abiti di seta, stava tenendo a Stefani una lezione sul simbolismo cromatico dell'abito di Elisabetta. A quell'epoca, le stava dicendo, tutto aveva un significato preciso. Ogni colore poteva essere decifrato. Il giallo era la gioia, ma il giallo limone era la gelosia. Il bianco era la morte, il bianco latte, innocenza. Il nero era lutto, l'arancione malignità, il color carne lascivia. Il rosso significava sfida, l'oro avarizia. Il paglierino l'abbondanza, il verde era la speranza, ma il verde mare incostanza, il viola era la religione e il verde pallido l'abbandono. C'era da temere che anche il suo vestito denotasse incostanza, di certo non era affidabile. Daniel era piuttosto scettico rispetto a quei misteri. «Come faceva?» chiese. «Un elisabettiano a distinguere tra bianco e bianco latte, tra paglierino, giallo limone e giallo oro. E perché?» chiese Stefani. Carlyle parla di verde mare incorruttibile se quel colore indicava l'incostanza. A quei tempi, l'istruì Felicity Wells, si apprezzavano i colori veri, non le tonalità o le sfumature. Giallo, blu, scarlatto, verde. I colori misti quasi sempre simboleggiavano ambiguità e corruzione, e ciò rendeva il mondo più sgargiante. Carlyle era un romantico e considerava il mare una forza naturale. Per gli elisabettiani la natura non era al primo posto, che spettava invece alla verità della mente. Per loro il colore era più difficile da capire. Stefani disse che tutte quelle certezze e oscurità le piacevano molto. E Daniele disse che gli sembravano un po' assurde. La signorina Wells rise divertita al suo commento e disse che la ragione per cui le prostitute vestivano di verde era assai carina. La ragione carina era che rotolando nell'erba si macchiavano di verde le gonne. Il verde era anche il colore dello sposo, per l'ardore primaverile. Sospirò e il suo sguardo passò da Daniel a Stefani. Esistevano parole bellissime per designare il verde. Pappagallo, merda d'oca, celadonio. Persino la foggia degli abiti a quei tempi era piena di significato. Gli uomini e le donne del primo periodo Tudor erano molto virili e femminili. Spalle e toraci ampi, fianchi opimi adatti alla maternità e seni che si potevano vedere e giudicare, solo che poi si era esagerato. Enormi farsetti e braghe arricciati, verdugali e gorgiere così ampi che non si poteva vedere né intorno né sotto, sicché gli abiti diventavano vere prigioni per il corpo. Oppure, nel caso delle donne, gli abiti indicavano che erano proprietà di qualcuno. Paralizzate come cavalli impastoiati dalla loro stessa eleganza, simboli sessuali travolti dall'esibizione sensuale, imbottite e imbrigliate. La vecchia sovrana tinta e dipinta con una comoda sotto la gonna. Arrossì per quell'osservazione terra-terra, pedante quanto appropriata. Daniel la incoraggiò interrogandola su certe particolari tribune costruite a Westminster per i membri del Parlamento con i calzoni imbottiti, il che irritò Stefani. Gli ecclesiastici dovevano sempre dimostrare di essere animaleschi quanto gli altri uomini, chissà perché. Calava la sera, la stufa a gas ruggì, sputacchiò e divenne più calda. Daniel guardava Stefani nel punto in cui la camicetta si chiudeva sui seni. Guardava le caviglie fasciate dal nylon al di sotto della cascata di seta che stava imbastendo. Daniel ardeva di passione. La signorina Wells lo guardava consumarsi. Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.